insegnato a far l'amore, tu m'hai insegnato ad amare, ma non ho ancora imparato, quindi devo ripassare. Vorrei abbracciarti fino a farti male e ti vorrei chiamare, ma prima ti vorrei mancare. E quante volte te lo devo dire che non devi piangere e che il tuo viso proprio non è un posto per le lacrime. E c'è una cosa che ancora non sai, eri il più bello di tutti i miei guai. Vorrei guardarti di nuovo negli occhi e chiederti se noi tu ci pensi ancora, ma non fa niente. Vieni a incontrarmi nel mondo dei sogni e dimmi che saremo una cosa sola per sempre. Vorrei vederti e chiederti perché dopo tutto questo tempo parlo ancora. C'è in mente, vorrei fosse anche il mio. Ogni foto in cui sorridi avrei voluto farla io. E sei la mia eroina, mi hai salvato la vita, perché il tuo profumo è la mia droga preferita. E se insisto è perché avrei fatto per te tutto quello che nessuno ha mai fatto per me. E c'è una cosa che ancora non sai, eri il più bello di tutti i miei guai. Vorrei guardarti di nuovo negli occhi e chiederti se noi tu ci pensi. Aspetto lo stesso. Vorrei vederti e chiederti.